Sarà che a molte cose ho smesso di dare importanza, ma parlare con te o avere un muro in faccia non cambia tanto, perché di catene tu ne hai, incertezze tu ne hai, occhi belli già lo sai, fa impazzire tutti noi, incertezze tu ne dai, quante cose io vorrei dirti ma sei sempre per i fatti tuoi. Ti ho aperto tutte le porte, tu mi hai chiuso fuori. Ridendo e tenendo in mano tutti i nostri cuori. E sono certo che un domani te ne accorgerai. Siamo i Jump in the Shark. I Jump in the Shark, veniamo da Pesaro. Sai che siamo in due? Siete in due? Sì. Che minchia ci fate a Music Box Popoli? Chi vi ha dato il permesso di entrare? Ah, ragazzi. Benvenuti a tutti quanti alla nuova puntata del Music Box Popoli. Qua ci sono i mitici Jump in the Shark da Pesaro. Da Pesaro. Pesaro City. E che ci fate qua finora? Ma siamo capitati qui un po'. Per sbaglio. Sì, per sbaglio, un po' per la droga. Insomma, dai. La droga a Firenze la vedo un pochino. appare tutto, tutti i nostri pezzi, vabbè, video e robe varie. Poi altri contatti? Abbiamo Instagram, sempre come Jumping the Shark, Saltando lo Squalo, e niente, siamo anche su Spotify, volendo, o su iTunes, se uno vuole comprare il discaccio. Siete un po' vicino da tutte le parti. Sì, dai, siamo un po' fastidiosi. Allora, insomma, facciamo una cosa, perché, cioè, è una domanda che mi sono chiesto subito, come è questo nome Jumping the Shark? Allora, Jumping the Shark è un termine cinematografico, che viene da una puntata di Happy Days, in cui Mr. Arthur Fonzarelli, detto Fonzi, salta uno squalo con degli sci d'acqua, e quella puntata segna un po' il declino della serie di Happy Days. Perciò quando uno dice, diciamo, riferito a una serie TV, questa serie is Jumping the Shark, vuol dire che sta declinando, insomma, vuol dire che sta... Invece a voi che significato dà? Quello del... È un po' una contraddizione. Boh, noi l'abbiamo scelto perché io l'avevo scoperto per caso su internet e mi era piaciuto anche come suonava, ho detto dai, affanculo, anche se dobbiamo cantare, cioè cantiamo in italiano e il nome in inglese è un po' una cosa strana. Ah, però poi comunque ne è pieno, basta pensare di tutti. Sì, no, esatto, oppure anche Fine Before You Came, insomma. Sì, esatto, è pieno, è davvero pieno, abbastanza pieno di roba, di band che suonano, appunto qui a Music Box Popul ne abbiamo pensata una. Allora suoniamo? Sì, suonate, l'altro molto pezzo, bene. L'altro pezzo. Come, okay. Allora, diciamo che lo presentate adesso, nel sì, senso il titolo, e poi allora, ne parliamo dopo. Certamente, questo pezzo si chiama Shining, ed è sempre del nostro nuovo album, uscito una settimana fa, e è un po' più, meno urlaccione. Ok, meglio per il mixer, così non esplode. Molto bene. Bella, allora, fra poco... Ricordando che la compagnia non mi manca, sono a casa mia e il resto è noia, my love. Non credevo, mi sembrava tutto vero, come un falò acceso nella spiaggia, il desiderio si faceva assai più forte, un segno al collo, certe volte rimpiangi di avermi cercato, ammettilo, rimani in spiaggia, guardiamo l'alba, che sicuro un giorno ci alzeremo, ripensando a quanto questo treno è stato veloce per noi. Yo, bella lì, bella lì, bella lì, bella, bella, bella, bella, bella, bella canzone. Grazie mille. Minchia, siete bravi coi cazzi allora. Grazie, fratello, ogni tanto succede. Posso avere un po' io, se si può, la voce un po' più Certo, certo. Steve, è arrivato il tuo momento. Allora, probabilmente, non ne sono tanto sicuro, ma probabilmente ho fatto una cazzata. Ossia, forse prima avevo il microfono spento. Speriamo di no. Figo, cazzo. Sì, uscirebbe figo perché vi sentireste solamente sì, voi. Sente solo lui. Bello, bello. Una trasmissione monoteista. Della chitarra? No, il suo, il suo. No, no, no, c'è. Il mio, il mio. Tranquillo, tranquillo musicista. La chitarra c'è, la chitarra c'è. Molto bene. Allora, Shining. Che c'è da dire su Shining? Ma, pezzo nato nelle spiagge pesaresi, pezzo nato nell'estate, pezzo del cazzo. niente, tutto qua. Non so, parlare dei pezzi è sempre un po' difficile, perlomeno per me, non lo so. Descrive un'esperienza particolare, non lo so. Sì, no, descrive l'estate, descrive un po' il cinismo di quando si cresce. Eh beh, voglio. Niente, tutto qua. Comunque è sempre un po' romantico. Noi alterniamo molto il pezzo zozzone a quello molto dolce. È una cosa che ci piace fare. Un pochettino per le fighe, dai. Per le, sì, per le pussi, per le pussi. Come dicevamo prima. Niente, allora. Voi due come vi conoscete? Dove vi siete conosciuti? Ma come? Io e lui abbiamo fatto elementari e medie insieme. Poi alle superiori. Non ti voglio più. Adesso abbiamo questo gruppo qui da 4 anni e abbiamo 3 dischi, questo qui che è uscito adesso è il nostro terzo e niente, tutto qua, rock and roll. Allora, rock and roll, sempre rock and roll. Ricordiamo, il nome del terzo album è? Il nome dell'album è Amami. Oh. E il nome di questo pezzo che abbiamo appena suonato è Shining, come il film. Perfetto, mentre il primo e il secondo album? Il primo e il secondo che album? Che c'è da dire su essi? Allora, il primo album si chiama Fonzarelli. Fatto che avevamo 17 anni, perciò è incazzato nero, e anche quello si trova su Spotify, su YouTube, su SoundCloud, Bandcamp, tutte le piattaforme di musica, Fonzarelli. Mentre il secondo, che l'abbiamo fatto un anno dopo, si chiama Sogni Pesaresi, ed è un po' più cantautorale, un po' più sperimentale, più matto, insomma. Bello. Un po' di suoni. Sì, tendiamo sempre a cambiare molto i suoni e le idee. Ed è giusto così, la cosa bella della musica è che comunque non sei costretto a rimanere sempre negli stessi canoni, no, quindi certo. se un giorno sei convinto di andare a fare rap, vai a fare rap. Se un giorno sei convinto di cambiare tonalità alla chitarra, gliela cambi, cioè non sei vincolato, ed è bello così. No, certo, è bello certo. Così tant'è che appunto quando sento parlare di varie band che magari vengono insultate dicendo ma non sono più uguali a quelli del primo CD, no, è normale, le persone crescono, maturano diversamente, certo. Cambiano idea ovviamente. Comfort zone. Ma sì, perché poi molti dicono vabbè, sono arrivato al sì, punto che volevo arrivare, nel senso ho scoperto che questo funziona, esatto, mi fermo qua anche se magari ho altri progetti in testa, tant'è che poi molti cantanti vanno a farsi altre band che con quei progetti in testa che avevano e vanno a finire un pochettino male. Sì, sì, cioè, esatto. Cioè male o discretamente bene, diciamo, ma non come la band principale che hanno. Certo. Vabbè, comunque la cosa bella appunto quella di cambiare, essere non sempre uguali, a meno che appunto non lo si voglia. Certo, certo. Allora, vediamo un pochettino che possiamo combinare adesso. Siamo da più o meno 20 minuti online, quindi adesso vediamo. Rullo di tamburi. Oh. Fate un altro pezzo, mi sa. Allora, il prossimo pezzo da dove arriva? Quindi dal mio amico Rocco, stai dicendo? Anche Rocco ha contribuito a questo pezzo, infatti sì. ha qualche reminiscenza calabrese. salutiamo Rocco, ciao Rocco. Ciao belli. Culo. questo pezzo si chiama, vabbè, introduci lo chiamo. Sì, appunto. Si chiama Elena e canto io, che non canto mai. Ascoltate. Buona. Buona, Buona, buonissima. E adesso allora è il momento di... Di? È il momento di? Di Elena. È il momento di Elena. One, two, three. Come on. Pioggia un regalo in una notte. Passata a fissare il soffitto. In una stanza al freddo sulla pelle, dicembre che avanza. Il tuo viso è una maschera sulla faccia della gente, allontanami dalla mia mente. Elena, mi uccidi silenziosamente. Cose belle arrivano solo quando non le vuoi. Dovrei forse far finta che non mi importi più niente. Allontanati dalla mia mente. Mi sono stancato di trovare sempre mille scuse. Mi imparerò a vedere le cose in un modo diverso, in un mondo perverso. Quanto è bella questa Elena. Dio bella. Buono, bella, bella, grandissimi ragazzi. Maremma impastata, grazie, che fratello, è bella sta siamo canzone. Siamo molto contenti di essere qua, è un ambiente molto ospitale. Oddio, oddio. Se soffio praticamente esce la nuvoletta, però dai. Forse tanto ospitale non è. Facciamo che mi alzo un pochettino, mi sono rotto i coglioni di stare... Non è la temperatura che fa l'ospitalità. Sì, sì, ha voglia, ma poi comunque che volevi? C'hai due calabresi nella stessa casmera. Quindi mannaggia la miseria. Ragazzi, cioè, che fa una presenza qua dietro. Sì, perché più che altro, guarda, ti dà quella sicurezza che tu ti puoi stare là tranquillo, che non passa nessuno, non arriva nessuno. Le canzoni, Rocco? Sì, sì. Avvicinate gli microfoni magari quando parlate, quando interloquite con lui. Allora, Elena, chitarraio, dimmi, che cos'è? Ma c'è un motivo particolare o è nata così proprio? No, è nata così. Così, tipo te sei nel bagno, capito? una cagata d'artista. Sì, c'è anche un'opera d'arte che si chiama Merda d'artista. Merda d'artista, sì. Non l'avevo sentito nominare, più che altro. Esatto. Oh mio Dio, il manzo, il manzo. niente, dai. Allora, chi c'è da sapere di voi? Come è giusto che sia. Quest'estate a un festival che si chiama Villa Roll, che ha sede a Pesaro, abbiamo aperto ai signori Verdena. Bella Madonna! Già, non siete proprio. Non siamo gli ultimi arrivati. Esatto, sì, è buono. Non siamo i primi, ma neanche gli ultimi. E tutto qua è stata una serata magnifica e che ancora portiamo molto nel cuore. Come sono i Verdena? Sono dei bei personaggi, molto molto sensibili, molto introversi, molto artisti, insomma. Cioè, come dice Fabri Fibra, ti credi un artista finché non ne incontri uno vero. Sì, no, perché ti faccio questa domanda perché appunto i Verdena sono stati svariate volte anche da noi, giù in Calabria. Sempre molto disponibili, sempre molto alla mano, sì. Sempre pronti a qualsiasi cosa. Foto, fotografi, tutto quello che ti serve, insomma. Sì, sì. Davvero, davvero alla mano. Assolutamente. Come dovrebbe essere ogni artista. Sì, esatto. Sono convinto che non bisogna mai perdere l'umiltà, anche se a seconda appunto di quanto grande diventa il palco che puoi arrivare a calcare. Sì, perché conosco svariati artisti. Il primo che mi viene in mente è Fabrizio Moro. Lo reputo una signora persona, però ovviamente non quando ti capitano migliaia e migliaia di persone davanti non puoi dare quello che vorresti dare a tutti quanti, quindi che ne so, una foto, un autografo, è un pochettino ovvio. Più complicato. Certo, certo. Anche se poi comunque ci sono sempre le eccezioni, prendi Caparezza, finisce un concerto, siamo stati tipo 1000 persone là. Lui è un grande anche lui. Non si sente più tanto nominare. Non ti preoccupare, lo sentirai nominare nuovamente perché il prossimo uscita il suo album, quindi... Tecnicamente dovrebbe essere pronto, a meno quanto dicono i rumors. Molto bene. Vediamo che cosa ci dirà questa volta. Sì, io non sono uno sfegatato, però. Ah, beh, giusto per sentire ogni tanto. Voi invece come referenze, diciamo? Ma noi in realtà veramente di tutto. Cioè, a me piace molto molto Nick Cave. Non so se lo conosci. Oddio, no. No, vabbè. Sì. Nick Cave and the Bad Seeds. Oppure boh. Veramente di tutto, che musica nera ogni tanto, Curtis Mayfield, Terry Callier, elettronica anche quando può capitare. Sono stato a New York durante le vacanze di Natale, una settimanella, e ho visto musica elettronica da clubbing seria, vabbè. Crystal Castles, mi piacciono tantissimo, oppure Alcest, non so, invece il maestro. Io ascolto di tutto, dalla classica al jazz. È troppo bello così. Sì, così è seriamente, insomma, troppo bello perché appunto hai svariate cose in una canzone. Perché poi sì, esatto. Hai svariati modi a momenti anche. Perché appunto in una canzone potresti sentire linee di jazz come linee di classica. Esattamente. Come altre poi cose. A me piace anche una passione recente. Cioè, scoperta nel 2015 Fabri Fibra, che diciamo col suo ultimo album Squallor, che mi è piaciuto tantissimo, mi ha avvicinato all'hip hop italiano. E poi mi è piaciuto anche l'ultimo di Salmo. Sì, Evelyn's Back, sì, troppo. Quello l'ho anche comprato proprio. Sì, è una mia prossima, cioè un mio prossimo acquisto sicuramente, perché io sono del parere, poi correggetemi se sbaglio, che io preferisco comprare un album di una persona quando mi piacciono tutte le tracce, perché sono soddisfatto in quel caso di comprare un bell'album. Quando già non me ne piace qualcuno mi viene un pochettino meno. Per me è un po' diverso, per me comprare un album spesso è come comprare un libro, cioè magari ho sentito uno o due pezzi dell'album a caso e non me lo voglio rovinare ascoltandolo su internet, preferisco magari comprarmi il disco e ascoltarlo tutto per bene e dedicarsi magari in casa mia stendendomi sul divano e poi ovviamente scopri se è tutto bello o no, come leggere un libro, no? Cioè, sì, sì, sì, a voglia. Sì, perché alla fine dei conti potresti leggerti solamente l'inizio del libro, nel senso, esatto, il trafiletto che ti spiega un pochettino di chi si parla, poi magari andrà a finire che non ti piace. È una bella chiave di lettura anche questa. Io la vedo così, per me è come comprare dei libri, ovviamente ci deve essere un qualcosa che mi attira, sì. Come può essere un singolo, una canzone, cioè non vado proprio a scatola chiusa, però neanche totalmente aperta. Sì, sì, sì, sì. No, io invece, ti ripeto, preferisco in quella situazione là, perché poi comunque... No, no, certo, ma anche perché per l'epoca in cui siamo. Sì, ma poi lo considero come un pieno sostegno all'artista in quel caso, perché se comunque compri un CD, un album, quello che vuoi, comunque anche un singolo su iTunes, certo, e roba varia, dai pieno sostegno, nel senso fai capire che quella cosa ti piace. Certo, certo. In effetti è una cosa che mi piace tantissimo, il Music Racer, non so se lo conoscete. Sì, a me, io sinceramente sono un po' contrario a quello, ma io personalmente, cioè non mi importa niente. Sì, no, il mondo è bello perché è vario. No, esatto. No, però, sempre su quella chiave di lettura là, quando una persona, un artista, che magari non ha tutta la possibilità economica che vorrebbe, mette un Music Racer, è bello soprattutto l'idea che comunque la gente lo sostenga. Certo, sì, certo. Ti fa sentire un tantino meno solo. Sì. Poi ovviamente è normale che si... Sì, sì, no, poi ognuno ha i suoi modi sì, di promuoversi. Sì, sì, sì, ha voglia. Quello è uno... C'è chi si fa il mazzo andando ad ogni... tentando ogni diamine di locale per vedere, esatto, di alzare qualche soldo, c'è chi magari ci prova così. Sì, sì. Poi comunque ritorna sempre sullo stesso discorso, per andare, che ne so, a Cesena devo prendere un treno, un autobus, un qualcosa, certo, per arrivare, certo. Magari poi arrivo là, mi danno 50 euro, me li mangio, sì, per sì, il viaggio. Ci sta come discorso, perché no, alla fine, certo, dei conti, certo, vai a sentire, cioè ti sentono nuove persone, però non raggiungi l'obiettivo, appunto. Certo, certo. Allora, siamo arrivati alla terza canzone, abbiamo parlato quarta, un pochettino, sì. Quarta, sì. Questa era la terza, scusa. Ecco, quello lo intendevo. Facciamo che adesso ci sentiamo la quarta, okay, che avete intenzione di farsi sentire. Allora, la prossima canzone è sempre del nostro nuovo, facciamo quella del nuovo, perché le acustiche suonano bene. Ci sta. Anche perché molte sono nate acustiche, e si chiama Impulso questa canzone. Ok, allora facciamo che mi levo col microfono e attaccate. Un'estate che ricorderai, perché ritrovasti ciò che hai perso a causa dell'impulso di salire in cima. Non abbandonare, non mollare, non dare la colpa agli altri. Se cadi solamente colpa tua, è ora di rialzarsi. Magari basta volerlo. Hi! Minchia! Minchia, minchia, minchia. L'impulso. L'impulso, che bella anche questa. Grazie. Dio maiale, che come siete bravi. Cioè, che cazzo. Grazie, davvero, davvero bello. Allora, di che blatera sta canzone? Ma di che è parla? Sempre, guarda, ti spiego, questo album è stato composto nell'estate 2015. Sì. Periodo, diciamo, esatto, in cui io prima studiavo a Firenze, insieme a lui ero, però non faceva, c'eravamo in appartamento insieme, e poi sono scappato da Firenze perché mi sono trasferito a Bologna, adesso studio a Bologna, perché non mi Condivido in pieno. Cose mie. Condivido in pieno. E vabbè, senza fare polemica, quando era finito l'anno accademico siamo tornati a Pesaro, che noi d'estate stiamo a Pesaro, e io qua non avevo passato proprio un bellissimo anno, e quando sono tornati a Pesaro ho avuto proprio la liberazione ed è venuto fuori quest'album durante l'estate, cioè poi ci abbiamo messo 9 mesi a comporlo, però è iniziato d'estate. E quindi insomma ha un po' un cinismo di fondo e molto questa voglia di, non so, di emergere tutto qua. Ma sì, ma è normale. Tipica insomma dei 20 anni. Sì, guarda, a me è capitata più o meno la stessa cosa. Io inizialmente, adesso giusto per completare il discorso, volevo da Firenze. Certo. Questa qua è una città che se arrivi da solo è pesante. Perché appunto non, a parte piccoli spazi, diciamo, tra virgolette, non è molto espansiva, no. Quindi è un bel problema per chi, soprattutto, che ne so, io vengo dal giù, quindi è un bel problema, però anche se tu vieni da Pesaro... No, ma ci ho fatto caso anch'io, ma poi in realtà, guarda, veramente, non, in realtà l'associo più, come anche diceva in questa canzone, associo questo il fatto che non mi sono adattato, lo associo in realtà molto più a problemi interni miei, che cioè non è che sto a dare la colpa alla città, sicuramente non è universitaria come Bologna, su questo posso confermarlo sì. In pieno. Però comunque, capito, magari cioè, una città può essere vista in mille modi, cioè, sì, capito? Sì, perciò sì, sì. Forse non ho conosciuto le persone giuste, il momento giusto, non lo so. Sì, alla fine dei conti c'è chi si potrebbe trovare bene a Catanzaro piuttosto che a Firenze, esatto, e viceversa. Sì, quindi per esempio, sta molto bene qui, per sì, al contrario. Sì, io mi trovo bene. Cioè, sì, in realtà non è che è la città. È la persona, molte sì, volte. È il proprio essere. Oppure cosa cerchi te, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì. Tant'è che appunto quando ci sono state le vacanze di Natale sono sceso giù, anche io ho avuto uno sfogo liberatorio, ho cacciato fuori una o due canzoni, rimarranno un pochettino a caso probabilmente per un bel po', vabbè, però è così, normale, è cioè, ti liberi, certo, perché certo. Quando torni in un posto dove sei tranquillo, non hai grilli per la testa e soprattutto lo senti tuo, certo, certo. Ovviamente la testa si svuota e inizi a parlare. Tornare a casa è sempre sì. Una cosa comunque, dai, liberatoria. Molto buona. Allora, per chi vi viene a vedere live, come vi trova sistemati? Allora, io alla batteria e alla voce, e lui e io, alla chitarra e cori, e così, chitarra e batteria. Bello. E c'è tanto zoom e tanta potenza, il live elettrico è il live vero, e niente, è rock. Siamo un po' più pop, ma alla fine... Come è normale che sia, appunto, sì, perché esatto. Manca la batteria, mancano varie strumentazioni. Manca il ciccio. Sì, sì, esatto. Quindi tu si può dire che sei più o meno sulla falsariga di Taylor Hawkins, se ce l'hai presente. Oddio. Nel senso, per il discorso legato al fatto del suonare, no, cantare. Sì, sì. Cosa che fa anche lui ogni tanto. Però come stile non mi associo, cioè non è tra le mie influenze, diciamo. No, no, però intendo solamente per il, no, no, certo, per esempio... Sì, sì. Certo, certo, Taylor Hawkins è molto bravo a suonare e cantare. Tue influenze sulla legata alla batteria? Ma guarda, io vabbè, sono cresciuto adolescenza a Luca Ferrari, assolutamente, De Verdena e Dave Grohl, oppure mi piacciono batteristi anche quello di Smashing Pumpkins, Jimmy Chamberlin, o non so, ma mi piace veramente tutta la batteria, cioè mi piacciono le batterie di classe, insomma, non le batterie tamarre. Taylor Hawkins purtroppo è molto bravo, ma ha il difetto di essere un po' tamarro. Sì, ci pesta come un dannato, effettivamente. Sì. Così, insomma, il batterista dei Black Sabbath mi piace anche molto. Invece tu da chitarrista hai qualche influenza particolare o anche tu? Vabbè, il più scontato sarebbe Jimi Hendrix. Gli assoli. No, però cioè, sono aperto proprio a tutto, quindi veramente... Cioè vabbè, poi fa il conservatorio, cioè lui in realtà suona più musica classica che queste cose qui al giorno. Eh sì, ma... sì. È bello però comunque, cioè, io è la prima volta che mi sento, vi devo dire la verità, perché comunque, come li ho scoperti pubblico, li ho scoperti che semplicemente scorrevo la home di Facebook, ho detto guarda tu ci sono dei pischelli che hanno sponsorizzato una canzone o l'album, non mi ricordo sì, che cos'era, che era l'album. Probabilmente era l'album, ho detto ma proviamo a vedere come sono messi, poi comunque soprattutto non sapevo come organizzare questa puntata, ho detto proviamo. Sì, proviamo, sì. Sto rimanendo, cioè sono rimasto rimasto davvero molto, ma molto contento. Siamo molto contenti, fratello. Davvero, davvero molto bravi. Sapete prendere. Adesso. Speriamo, speriamo. Vi auguro un bel futuro. Molto seriamente. Bene, molto bene. Allora. Allora, chiudiamo con una canzoncella. Sì, si va con la quinta canzone. Siamo un tantino corti, si può dire. Quindi poi magari se volete, se ne possono fare altri. Va bene, dai. Allora, andiamo con la quinta? Sì. Come allora, si chiama? Questa si chiama Dimmi quando verrai a casa. Ed è proprio la prima dell'album che è stata inventata proprio come nel periodo in cui proprio stavamo per tornare a Pesaro. E infatti, dimmi quando verrai a casa. E anche di questa c'è il video su YouTube, c'è il singolo in cui ci sono io che immergo la testa nella fontana di Piazza del Popolo, di Pesaro. E niente, per chi se la volesse sentire, dimmi quando verrai a casa, Jump in the Shark. Thank you. bravissima roba, Dio. Bravi, bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Mizzica. Vedi tu, quando non è stata una cosa molto professionale la mia, perché avrei dovuto prima sentirli, però parlo con il mio amico Steve perché mi guarda. Sì, però sì. Beh, di affidarsi delle persone ogni tanto, che succede? Ho fatto molto bene, ho fatto davvero molto bene. Ammiriamo molto chi dà fiducia, perché non è una cosa scontata. No, assolutamente. Cioè, ormai perlomeno molto del settore musicale gira molto in base alle conoscenze, non in base al ti ascolto, mi piaci, capito? È molto più ti conosco e è molto più un ti conosco e allora ti promuovo. Sì, capito? È molto raro spesso che magari mandi la roba ai locali o a etichette e, capito, ti prendono semplicemente perché hai fatto un bell'album. Cioè, molto spesso devi sempre avere un intrallazzino, diciamo. Però voi com'è successo? Noi i contatti ce li siamo fatti, suonando in giro anche gratis, capito? Così. È normale. La classica e famosa gavetta che dovrebbero far tutti. Esattamente. Che però qualcuno non fa e poi alcuni ce li siamo fatti così, altri appunto ci hanno, per lo stesso motivo tu, hanno visto nostre recensioni su internet o canzoni che giravano, non lo so, e comunque è bello quando appunto sulla fiducia ti dicono dai vieni, sì, vieni. No, perché io questa qua il discorso dello sponsorizzare solamente perché si è amici, non è questo il caso vostro, ma è il caso di molti altri. Beh, mi dà molto, ma molto fastidio, perché preferisco che sia una roba molto più spontanea, tipo questa. Certo, certo, ma succedono, sono più rare. Purtroppo. Sono più rare, purtroppo. Ma ci sono. Ci sono. Tu devi sapere, tu non immagini quante band brave ci sono giù da noi. Certo. Però solamente perché non conoscono magari Tizio, Caio, o Sempronio, rimangono là. Ma la maggior parte ma tutti, paese. Tutto il paese italiano. Ma io sento, voi in primis, ma altre band che ho passato prima, come il Giardino di Armida e come Anzani Sanò, che sono due band calabresi che ho avuto opportunità di ospitare radiofonicamente parlando. Loro sono molto bravi e sono, secondo me, secondo il mio gusto, diciamo, molto meglio di quello che si sente in radio. Però, appunto, non hanno le giuste conoscenze, non hai... Sì, è una cosa... Diciamo che il talento è un 20%. Sì, l'80% è tutto culo. Sì, culo, conoscenze. Cioè, ovviamente, tu più ti sbatti e più ti impegni, cioè più stai vicino alla stazione... E più è probabilità che passi il treno, no? Sì, sì. È ovvio che se non sì, stai... Però, insomma, la diciamo passione prima di tutto. Sì, diciamo che noi abbiamo una situazione ferroviaria un pochettino così. Cioè, quindi... Sì, degrado proprio... Mega. Sì, sì, basta prendere Trenitalia. Proprio il sistema italiano dei treni che non va. Non va alla ferrovia, quindi... ci si trova un pochettino così. C'è chi riesce a beccarlo al momento giusto perché sta per passare. C'è chi magari arriva all'orario giusto, aspetta, è in ritardo, poi dopo un pochettino se ne va perché si è rotto il cazzo e ciao. Lo so, è così. E perde il treno. È parte del gioco. È parte del gioco, sì. Devi saper rischiare. È divertirsi, insomma, e godersi quello che si sta passando. Sì, l'importante è appunto questo, divertirsi quando si fa musica, anche se magari la sente solamente Steve, anche se magari la sente solamente Rocco, o anche se magari la sente solamente Samir, certo. Quindi... Ma magari. È giusto così. Cioè, la cosa bella è appunto questa. Devi divertirti. Sì, no? La musica è questo. Prima ti diverti, poi tenti di far divertire gli altri. Proprio non abbiamo freni, insomma. meglio così. Allora, quante canzoni contiene il vostro ultimo album? Ne contiene 10. Ne contiene 10 spaccate e domani saremo a Tivoli a suonare. Oh, che bella. Sesto musicale e dopodomani a Civitavecchia. Insomma, vicino a Roma. Sì, vi fate la frazione sì, di Roma, si può dire. Invece la prossima settimana saremo a San Giovanni Rotondo, in Puglia, bello. Padre Pio City, e poi a Trani, e poi saremo un po' nelle Marche, a marzo molto probabilmente capiteremo ad Arezzo, insomma dai. Girate ed è meglio così, Giriamo. Così che come vi ho scoperto io, vi scoprirà un altro Giovanni di Padre Pio, di San Giovanni Rotondo. Beh, cioè. Un altro Giovanni di San Giovanni Rotondo, proprio la fantasia. San Giovanni. E niente. Allora, quindi avete fatto 5 pezzi, se non erro. Sì, dobbiamo fare il quinto. Sì. Che ci proponete? Facciamo l'ultimo altro nome femminile. Sì, un altro nome femminile è dannazione, guarda, non me ne parla più. Che cosa ha detto Steve? Scusa, che non parlo sempre. Che gli piace la figa? Ci piace la figa, ci piace. Dai, fortuna, cazzo. Sì, sì, dai. Se no, Steve, se fossi stato in te mi sarei preoccupato se non gli piaceva. Allora, Marilu. È un pezzo, noi affacciamo sul mare Adriatico e questo è un pezzo un po' adriatico. Quindi, ragazzi, Music Vox Populi, se state sentendo, adesso tocca a Marilu. Sporco le mani ancor di più, e il sangue all'improvviso arriva. Lascia tutto, vieni, buttati anche tu, difficile risalire. Minchia, zio, ma c'hai un maestro al tuo fianco, zio buono. Maestro lui, eh. Madonna santa, bravi, bravi, nuovamente grandissimo. Grazie. Pezzo anche a Marilu. Grazie, fratello. Bravi. Ti ho messo un foglietto là. Ah, molto bene. Te l'ho dato a te. Ah, è per me questo? Sì, adesso okay. Fammi vedere un secondo che cosa potresti dire. Vai, vai. Perché questo qua è un foglietto magico. Sì, ed è quello che devi dire. Allora, niente, che dovresti. Fammi recitare. Allora, là, semplicemente ci sono dei contatti di Radio Wombat. Ok. Allora, a te il momento. Allora, ragazzi, se volete seguire Radio Wombat, le prossime puntate fai di Bella va sul sito. C'è Wombat, con la W, wombat.noblogs.org. Su Twitter c'è Radio Wombat Fi. Su FB c'è Radio Wombat Firenze. E sulla mail c'è postawombat@insiberia.net. Segui sta cazzo di radio, porca madonna, perché spacca il culo. Wombat, vai! Wombat, amici sportivi. Allora, come avete potuto sentire, c'era un indirizzo email. Perché? Perché c'è un indirizzo email? Perché noi stiamo cercando di creare il logo della radio. Quindi se anche voi venisse l'idea di immaginare un logo per questa radio, lo inviate a postawombat@insiberia.net inviate e ci siamo. Allora, abbiamo sentito Marilu, tornando su voi, anzi a voi. Sì. Di chi... di che parla? Beh, di che parla? Della figlia. Della pussy... Ci avete un chiodo fisso di buono, eh? Infatti sì. E basta. Sì, ogni sì. tanto... no, guarda, perdonami, ma io quando mi sento di parlare delle mie canzoni faccio sempre una gran fatica. Però, no, niente, tutto qua. Queste sono tutte canzoni che si trovano nel nostro nuovo album, Amami, che, ripeto, si può trovare su Spotify o comunque seguiteci anche su Facebook come Jump in the Shark o su Instagram. E tutto qua, ragazzuoli. Noi, sinceramente, io non ho più nulla da dire. Io ho detto quello che... Tu che parli poco, c'è qualcosa da dire invece? Allora, più che altro, la domanda è... Hai messo in panico forte. Lo so, era quello l'intento. La domanda più che altro è... Le canzoni come nascono? Nel senso, prima tu partorisci il testo, poi glielo porti a lui? Allora, o molte volte c'è anche lui che partorisce il giro e diciamo poi te lo parti? Che in linea di massima... Spesso per molte canzoni di questo nuovo album io arrivavo in sala prove con delle canzoni, cioè le registravo in un registratorino portatile e gliele mandavo, e praticamente erano con la chitarra, le facevo io con la chitarra acustica e col testo, però ovviamente il mio era un pezzo di chitarra molto rudimentale, e lui poi in sala prove ci lavoravamo, le riarrangiavamo e lui le trasformava, oppure molto spesso partivano da riff suoi come Vera Show, come Elena, o dipende in realtà, dipende dalla canzone, però sì. Portano delle idee, si riarrangia insieme, si vede cosa va tolto, cosa no, insomma, dai. Bello, molto bello così, molto, molto bello, perché comunque dai, tu dai la tua sfumatura, lui mette la sua parte, quindi certo. Si forma una bella situazione. Certo, siamo sul pezzo. Sì. Allora, andiamo verso le ultime chiacchiere, perché poi la puntata è quasi giunta al termine. Ricordiamo le date di okay. questo tour. Ricordiamo le date. Allora, domani siamo a Tivoli, domani che numero è? Domani è 3. Okay, allora, domani 3 febbraio siamo a Tivoli al Dissesto Musicale, e il grande Steve Cazzo. Il 4 febbraio siamo al Pin Up di Civitavecchia, l'8 febbraio siamo al Maluma di San Giovanni Rotondo, il 9 febbraio al Bubbles di Trani, il 13 febbraio siamo alla Brut Epoch di Milano, e il 10 marzo siamo a Locanda San Rocco di Fermo, l'11 marzo al Fuga di Ascoli Piceno, e poi ne abbiamo altre che stanno per essere confermate, che arriveranno successivamente. C'è una piccola notiziola, un piccolo spoiler, c'è qualche città del sud magari che verrà toccata, o rimanete verso sopra in questo allora, caso? Allora, sappiamo che è in procinto di essere confermata Arezzo, poi il 31 marzo Lunano e il 21 aprile ritorneremo a Milano. Ma del sud? Vabbè, sì, è un pochettino problematico. Devono arrivare tante conferme, sicuramente verranno fuori nei prossimi giorni. Si spera, perché anche il sud vuole sentirvi. Anche il sud certo. ha il dovere di sentirvi. Ogni volta perché che andiamo giù stiamo veramente da Dio, ci trattano sempre benissimo. Veramente, quando sono al sud stiamo veramente bene. Ma non lo dico per, cioè, è proprio, hanno un modo di trattare è la gente. Sì, è la cruda realtà, fra virgolette. Cioè, noi siamo molto così. Ci fanno sentire nel piccolo delle star, comunque. Sì. Si tratta molto bene. A me è capitato, prendo un'esperienza personale, di andare a Potenza per il Pipistrello Club, che stava facendo insomma un festival, e praticamente là ci hanno davvero trattato come se fossimo star con la mia ex band, quindi è proprio una cosa del sud. Viva è proprio una cosa del sud. Viva voi. grazie. Un ringraziamento a tutti quanti. Allora, la cosa bella è che comunque... Anche se magari non riuscirete a trovare date, dato che questa trasmissione è seguita più che altro oltre a Firenze, anche al sud, dato che sì. comunque io sono del sud, dai, allora qualcuno vi sentirà in più. Sì, lancio un appello, perché magari forse qualche localino Calabria, esce fuori. Calabria, noi, se ci chiami, spacchiamo il culo! Oh, chiamaci! Calabria, all'ascolto, chiamateli. Allora, passiamo ai saluti conclusivi, è stato un piacere. Ringrazio per prima cosa il mitico Steve. Grazie ragazzi, è stata grande un'esperienza Steve. Veramente formativa. spaccate. No, ringraziamo molto anche Steve che ci ha aiutato a fare i suoni e a montare, che ci sta aiutando molto questi giorni. E ringraziamo te, fratello bello, ringraziamo Rocco. Grande Rocco, porca troia. La roccia, Rocco la roccia. E niente, speriamo di risentirci presto, insomma. Speriamo. Io nel frattempo ringrazio voi, vi ringrazio a nome di tutta Radio Wombat per essere stati nostri ospiti. Vi avviso che siete stati la prima band della trasmissione a venire a suonare qui, proprio di fronte a me. Che onore. Quindi è stato... mi avete sverginato, come si suol dire. E del resto niente, se avete un ultimo pezzo, concludiamo con un ultimo pezzo, se no salutiamo così. Come facciamo uno del vecchio album che... Oh, che bello! Che diciamo nella nostra città è diventata un po'... Dai, dire un'istituzione è dire troppo forse, però diciamo una cosa che si sente, si può sentire cantare. E allora salutiamo anche Pesaro. Salutiamo Pesaro, città che io amo. E la tua ovviamente, quindi non è una frase tipica di un pesarese, perché il pesarese sì. Medio odia Pesaro, i pesaresi sono un'eccezione, però allora salutiamo tutti quanti, vi lasciamo con quest'ultimo pezzo che si chiama Tu eri bellissima, lasciatelo dire, direbbe qualcun altro. E allora Wombat Wombat, un saluto a tutti quanti quelli che hanno potuto seguire la trasmissione, e un'altra volta Wombat Wombat.